diretta dagli studi di Via Zanardi, Radio Città Fujiko, dopo il GR di Radio Popolare, una edizione di Altri Suoni, come capita il lunedì, con recensione e sentiti per voi per quanto riguarda i concerti tra Torione e Bologna Jazz Festival. È il momento di Fabrizio Bosso, che atteso con grande entusiasmo in una sede concertistica a dir poco incantevole come il Torione, è stato accolto con il pienone, gremito in ogni ordine di posto, anzi di più, con grande soddisfazione quanto mai comprensibile da parte di un ottimo Francesco Bettini, ha portato sonorità di interpretazione sopraffina il protagonista pugliese alla tromba Fabrizio Bosso. Classe 1973, aggiungerei nell'interpretazione anche classe eccelsa. In collaborazione con la rassegna Felsini ha visto un quartetto, Fabrizio Bosso alla tromba, frontman in tutti i sensi carismatico, di un trio allineato, Giuliano Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria. La formazione We Wonder, già da adito e intuizione all'ispirazione tratta dal grandissimo Stevie Wonder, compositore eterogeneo in diverse realtà che vanno dalla bossa all'elettronica, al soul, al pop, e una fantasia di composizione legata a una raffinatezza e una capacità tecnica sopraffina. Allo stesso modo il trombettista Altorione ne ha dato un esempio concreto di come può essere sviluppato in un'esposizione e una narrazione di modern jazz. Allo stesso tempo il coinvolgimento, la capacità di alternare parti leggibili e allo stesso tempo parti innovative di improvvisazione radicale, dove Fabrizio Bosso è stato oltre che protagonista conduttore dei sidemen al suo fianco, che perfettamente hanno saputo tenere il passo del musicista, come vi ho detto, che ha scritto il disco We Wonder insieme al suo quartetto. Questo lavoro poi portato al Torione ha dato, come vi ho espresso in precedenza, un grande entusiasmo per tutte e per tutti. Un aspetto, come vi ho detto, di fruizione eterogenea per tutte e per tutti, lo ribadisco. Il concerto al Torione, che in maniera diversificata, e qui onore al merito a Francesco Bettini, ha la capacità di portare dall'avanguardia al mainstream, al jazz contemporaneo, al modern jazz, alle strutture anche che flirtano con altre sonorità. Quindi per la scelta di trovare la musica di Stevie Wonder, direi proprio che in questo caso l'aspetto di ampliare il raggio dell'ascolto è riuscito perfettamente. E aggiungo l'ascolto, ovviamente, perché ho rubato alcuni fraseggi di Fabrizio Bosso in relazione a brani interpretati, di cui entrerò nel dettaglio partendo da una parte di improvvisazione radicale legato al brano capolavoro di Stevie Wonder, che è Another Star. Ascolteremo la parte di improvvisazione più consistente che ho tratto dal live e poi il brano preso dal suo disco, per mandare sia la parte accattivante, chiamiamola così, sia quella invece di costruzione più strutturata. Anche il brano iniziale preso dal Torrione Live è la parte di costruzione legata all'improvvisazione che ha accompagnato poi a questo tema principale tratto dal brano Soul Another Star. L'esempio, la capacità di accompagnamento in questo giardino chiamato Modern Jazz, dove possiamo trovare anche delle parti che ci confondono un attimo, e sta proprio lì la bellezza poi di riscoprire un piacere nell'intuire il tema o allo stesso tempo poi di goderne nell'esecuzione, e la musica di Stevie Wonder ne dà una rappresentazione quanto mai reale e tangibile. Boss è un virtuoso, Boss è un interprete, infatti a volte, no, quando si parla è un grande concerto, alcuni ascoltatori al mio fianco dico sì, è un grandissimo interprete, non volevo essere confuso dicendo insomma fa cose già sentite, tutt'altro, infatti la risposta è stata sì, anche Mina è una grande interprete, esatto, sono dei numeri uno. Nel jazz l'aspetto dell'interpretare dà la possibilità anche, e per chi ne ha le capacità ovviamente, di trarne una scrittura ulteriore, una trasformazione, si dice in gergo tecnico un alternate take. Posso fa parte di quella generazione per portare, e qui viene il quiz, perché voglio portare nelle vostre discografie che vorrei arricchire per quest'oggi, non un saggio, non un romanzo, ma quest'oggi avremo il CD Spiritual Trio, la formazione di Fabrizio Bosso come interprete in quel disco molto molto bello da Converve Record, quindi una label quanto mai preparata, voglio dire, con questo disco Purple in trio. Beh, ne abbiamo già avuto modo di ascolto l'importanza della struttura soul con l'organo Hammond, ed è a vostra disposizione al 333-180-9494. Dovete rispondere a un quiz. Beh, non so fino a che punto facile o difficile, però a breve sarà portato alla vostra attenzione. Ricordo 333-180-9494. Era in quartetto in questo disco Bianca al clarinetto, sax tenore Nico Gori. Procedendo nelle selezioni della lista dei brani interpretati da Bosso, stiamo ascoltando Another Star. For you there will be another star, capolavoro di Stevie Wonder, uno dei brani io, nei primi tre secondo me, per il gusto personale, e poi ovviamente il piacere, questo è gusto personale in ambito di soul. Sapete che adesso il jazz ha avuto una capacità, soprattutto nel modern jazz, visto le generazioni che ne sono interpreti, di indagare tantissimo anche nel mondo del rock. Gusto personale, io resto legato al mondo del soul, del blues e del funk, ciò non toglie che ovviamente puntini, non sto a giustificare né a giustificarmi. Detto questo, la selezione dei brani di Bosso al concerto è stato, ho notato, con più attenzione verso un disco, Song in the Key of Life, che è un disco doppio di Stevie Wonder del 74, mi pare, o qualcosa di più adesso, ma non ha preso brani dai due dischi che hanno sfondato totalmente, cioè Inner Vision e Talking Book, quelli di Superstition, Don't You Worry About a Thing, ecco, per darne un'idea. Aver scelto da questo disco cerniera tra le epoche un motivo di approfondimento e scelta musicale, secondo me è stato un valore aggiunto ulteriore, ecco. E per quanto riguarda la parte più pop, anche questo interessante assolo con Sir Duke, brano che insomma è un motivetto in questo caso, che flirta con lo swing, rifatto in questo modo assolutamente particolare. We'll be right back. va da sé, se volete portare al Torrione chi non ha mai vissuto un concerto jazz in un club, questa era l'occasione perfetta, ecco, senza togliere una grandissima qualità. Ripreso dalla tradizione dei grandi Lee Morgan, Blue Mitchell, trombettisti del mondo hard bop, con funky, soul e anche sonorità e capacità di divagazione bossa. Alcune parole anche sui musicisti Julian Oliver Mazzariello, il pianista e Fender Rhodes, sempre a fianco, e lui collabora con Bosso, italo-americano, Julian Oliver Mazzariello, è un paisà, se così si può definire, per quanto riguarda un suono come abbiamo ascoltato nell'intro di Sir Duke alla Oscar Peterson, per dire, anche lui perfettamente a tema con l'hard bop riletto certamente in modern jazz da Bosso. Alla batteria Nicola Angelucci, al contrabbasso Jacopo Ferrazza, allo stesso modo hanno avuto modo di timing esattamente allineato, quindi una band molto compatta, omogenea positivamente, che sa condurre e accompagnare un solista come Fabrizio Bosso. È il momento del quiz. Sono gli anni del grande bebop. Chi era il trombettista per antonomasia del grande bebop? No, anzi, lui è stato il bebop. Perché sì, tutti giustamente, ci mancherebbe Charlie Parker, Bird Charlie Parker, certo, come no, però Charlie Parker è stato il braccio armato, che non è molto bello questo, diciamo che è stato l'esecutore, è stato il braccio, ma la mente è stato questo trombettista. È stato un trombettista anche molto longevo, per cui insomma, se mi scrivete al 333-180-9494 chi era e chi è questo trombettista, perché per me resta un tutti i tempi, grandissimo lui, per voi il disco Spiritual Trio, la formazione di Fabrizio Bosso con uno studio di interpretazione legato all'organo Hammond e tromba, e quindi il disco dal titolo Edizioni Verve Purple, ecco, sarà per voi, per arricchire la vostra discoteca, la vostra collezione di CD. Chi era la mente, chiamiamolo, sì, insomma, adesso sto tagliando molto con l'accetta questi termini. Intanto vi lascio con l'assolo di Fabrizio Bosso, il solo che ha portato a conclusione nel bis il concerto al Torrione. Intanto che aspetto le vostre risposte. Charlie Parker e puntini puntini puntini. Chi era il trombettista del bebop? Brava Simona! Beh, se ho intuito bene, Simona è un'appassionata e colta in ambito di jazz. Senti, ti lascio ascoltare la chiusura di Bosso, eh? grazie di cuore. Buon Natale, mamma mia. I Wish ha aperto con questo brano, I Wish, un altro grande lavoro di Stevie Wonder. Allora, Simona, sì, Dizzy Gillespie è la risposta per te. Il lavoro in Spiritual Trio, organo Hammond, frontman Fabrizio Bosso, edizioni Verve, titolo del disco è Purple ed è in redazione che ti attende. Grazie per aver giocato con altri suoni Breakfast Club. Pubblicità breve, poi iniziamo con i magazine.